Rock. Rock Wave Live. Sì, io sono partito un po' di cattiveria, Maurizio. Sì, l'ho sentito. Sera. Buonasera, Sergio. Altrimenti andavo su un'altra canzone. 22.4 minuti, mercoledì 28 novembre 2012. Rock Wave Live del mercoledì, il nostro appuntamento clou, classico, quello più importante forse della settimana dei live qui a Blu Radio Veneto. Maurizio, con chi siamo questa sera? Stasera abbiamo i Wooden Sheep, il tributo a Kobe Steel, Nash & Young, però abbiamo Padova. È la California, è Padova stasera, una cosa meravigliosa. Mi già sono venute tutte quante le emozioni, le sensazioni quando ho sentito le prove. Sento già caldo. E sono molto caldo, sì. Ho sentito Carry On in versione acustica, però è una cosa meravigliosa. Erano anni che non ho sentito in versione acustica. Tiziano, Andrea, Ines, Giorgio, Stefano e Max ci introdurranno, ci faranno godere musicalmente per due ore delle atmosfere californiane. Del Kobe Steel, Nash & Young, ma soltanto di Kobe Steel, Nash & Young, l'origine della California, le atmosfere californiane, una cosa meravigliosa. Buonasera Tiziano, quanti anni che non ci vediamo qua dentro? Circa 4, quanti anni fa sei venuto? Ciao innanzitutto, questo per me è un rientro. Dopo 2022, febbraio 2006. 2006, quindi circa 6 anni. Eravamo qui con il compianto, sì, Franco Capovilla, Franco Serena, Lele Zambon, e se ti ricordi abbiamo fatto... Sì, abbiamo fatto anni 60, Lele Zambon era dei Royals, Mrs. Robinson tradotta da Guccini, poi sì. Chiaramente quella è una cosa meravigliosa. Fini abbiamo fatto, e poi c'era Franco Serena, e poi c'era Franco dei capelli verdi. Stasera abbiamo una formazione diversa, ma sempre entusiasta. Una formazione piena di entusiasmo. Beh, questa è una formazione che io vorrei anche sentire. Anche Giorgio, fai sentire la tua voce. Giorgio è un punto cardine. Buonasera Giorgio, sei un punto cardine assieme a Tiziano. No, direi che intanto sono più giovane del gruppo. Mi pare giusto. E questo è molto importante. Al di là di questo, sì, qualcuno ci crede anche. Io personalmente. Vabbè, al di là di questo, diciamo che ho conosciuto Tiziano logicamente perché facciamo parte dello stesso ambiente di Padova, dei musicisti di Padova. Era tanto. Sì, che... come è nato il discorso di Wooden Sheep? C'è una derivazione delle derivazioni. Allora, dai, diciamo che i primi approcci che noi abbiamo avuto con Giorgio era il 2003-2004, quando io per caso andavo sempre a sentirli quando suonavano nei locali. Specialmente... Suonavano che cosa, Giorgio? Beh, noi facevamo l'ultima idea era un gruppo che faceva tutto. Dylan? Sì, dimmi. Facevamo Dylan praticamente, era un'idea. Cosa di Dylan, Giorgio? Perché adesso Dylan, io mi devo alzare in piedi. Si è partito dai primi pezzi acustici fino ad arrivare alla parte elettrica, toccando anche dei pezzi proprio attuali, nel senso massimo 2010, 2009, 2010. Dylan recente praticamente. Dylan recente, cosa ne pensi di Tempest, visto che passiamo di Dylan? Oddio mio, non è che mi piace più di tanto. No. Penso sia un grande album. Un grande ritorno, quello un grande sì. Ritorno. Lui è meraviglioso perché ha una voce che è lui può fare quello che vuole in ogni caso. Come Neil Young ha fatto un disco incredibile, è uscito da pochi giorni anche qui. Niente, per me Dylan è una delle quattro basi in cui sto in piedi io, nel senso che la mia persona vive solamente su quattro basi. Uno sono i quattro baronetti. Beh, quello lo puoi immaginare. Quello possiamo immaginare. Poi Dylan, per forza di cose. Crosby, Stills, Nash. È strano a dirsi, ma io ho fatto anche nel mio periodo musicale migliore, quando ero un po' più giovane, i Deep Purple. Ah, i Deep Purple hai fatto. Child in Time hai fatto allora. Sì, non proprio quella. Che, ma comunque, non c'è John Lord stasera, sì. Cioè non c'è la tastiera di John Lord. Ma tu ti rendi conto dove arrivava lui con la voce? Arrivava in qualcosa per cui di meraviglioso. Si facevano dei pezzi molto importanti, però non a quel livello, diciamo. Anche perché poi penso che questo pezzo sia uscito dopo di quando io ho smesso di suonare. Esattamente. Con quel gruppo, con gli Home di Padova. Non so se sì, conosci gli Home. Sì. Una volta facevano Deep Purple, Grand Funk, Uriah Heep. Uriah Heep? Sì, molto interessante quello. Mica semplice fare gli Uriah Heep. I Who, i Guess Who. Questi erano i gruppi da cui prendevamo spunto. Quindi spunto, spunto dopo spunto tra Beatles e Crosby, Stills, Nash e Young. Young lo citate poco stasera, molto poco. Come mai citate poco Young? Oddio mio. A te la parola. Tiziano, perché ci... Lo so che tu sei un Roger McGee indipendente. No, io sono Peter Roger... Io devo così dire una cosa. Io sono molto amante di Crosby, Stills, Nash, un po' meno di Young, devo dire la verità. Io amo molto l'album che ha fatto i primi anni 70, Harvest, che per me è un grande capolavoro. Poi però non andava d'accordo con Stills, per quel discorso. Non ho mai poi non non è mai andato d'accordo con Stills. Young e Stills sono andati d'accordo, sì, sono andati d'accordo in alcuni momenti, alcuni periodi, ma Young è un tipo solitario, un loner, assolutamente un loner, quindi deve essere un tipo solitario, se ne deve allontanare, deve ritornare, si allontana, eccetera. No, comunque qualche pezzo di Young lo facciamo, sì, questa sera, certo, in questo caso, certo. Non credo ci sia nella scaletta. Dunque parliamo di questa idea. Avete avuto l'idea di fare un tributo, un tributo ai Crosby. Allora eravamo arrivati che io andavo sempre a sentirli, a sentire Giorgio, sì. E sentivo che facevano questi pezzi di Bob Dylan. E appunto c'erano anche dei pezzi di Bob Dylan che erano stati ripresi dai Birds. Sì, esattamente. Allora io mi sono proposto, visto che ragazzi, c'è una... no, adesso diciamo una cosa fondamentale. I nostri ascoltatori non hanno le telecamere accese. Però Tiziano, fammi vedere la chitarra di Rickenbacker che è davanti. Tiziano ha la chitarra identica a quella di Roger McGee, ragazzi. Sì. Identica a quella di Roger McGee. Assolutamente uguale. Sì. Ci ho messo anche pure la scritta. E ci hai messo pure la scritta. Cioè è un'emozione anche toccarla praticamente. Sì, prego. Devo toccarla? Sì, sì, prego. Ecco. L'ho toccata, ragazzi, l'ho toccata. Assolutamente. L'ho toccata. No, a parte i scherzi, allora io avevo questa chitarra, mi ero proposto a dire, Giorgio, cosa dici? Facciamo magari, mi vorrei propormi come special guest a fare qualche pezzo di Bob Dylan con la chitarra Rickenbacker 12 corde, come la facevano i Birds. E dove arriviamo? Dove arriviamo? Arriviamo? A cosa arriviamo, Giorgio? Cosa arriviamo? No, praticamente, guarda. 2 minuti e 35 dura. Abbiamo fatto una o due serate. E abbiamo invitato appunto Tiziano a fare questi quattro pezzi. Sono piaciuti così tanto che io ho cominciato a rompergli l'anima e di dire Tiziano, ma sì, facciamo, ma facciamo. Oltre a questo, perché non facciamo Crosby, Stills, Nash? E dai una volta, dai due, dai tre, lui poi aveva diversi altri impegni per cui non era mai pronto. Eravamo di rimpettai delle sale prove. Avevamo la sala prova nello stesso stabile, per cui quando io finivo di suonare andavo da lui. E veniva a rompere le balle da noi a questa storia, dai facciamo sto super gruppo. E finalmente poi ad un certo momento ci siamo messi d'accordo, abbiamo cominciato a fare le prime prove. Questo circa un anno fa, per cui non siamo insieme da molto. Beh, insomma, siete insieme da molto, però indirettamente vi conoscete da molto, sì, perché la musica non ha confini. Sì, no, decisamente. Però sai, avvicinarsi ad un repertorio così importante come i Crosby, Stills, Nash è difficile, ragazzi, è molto difficile perché le armonie vocali di Crosby e Nash sono incredibili. Esattamente. Crosby ha 71 anni, Nash ne ha quasi 70, però non è cambiato nulla rispetto agli anni 60. No, decisamente. La magia rimane. Decisamente, anzi, se posso dire, danno un pathos, non so come dire, una sensazione di grandezza. Esattamente. Anche ora, nell'ultimo concerto che abbiamo visto, che nel 2012, Padova, sì. No? È stata una cosa meravigliosa, ossia non ce n'è per nessuno, ragazzi. I grandi vecchi sono i grandi vecchi. I grandi vecchi sono i grandi vecchi. Ci siamo scaldati bene? Siete tutti a posto? E adesso dobbiamo fare una cosa che qui a Blu Radio Veneto, a Rockaway del mercoledì, si fa sempre. Si suona che cosa? Si comincia la scaletta, una scaletta meravigliosa, che è qui davanti, chiaramente. Con cosa cominciamo? Con un pezzo di Crosby, Stills, Nash, avete deciso di quello? Direi no? Di sì. Ecco, il titolo? Allora, Helplessly Hoping. Diciamo che è un pezzo scritto da Stills. Perché? Perché c'era praticamente l'idea, perché parlava con la sua insegnante di inglese, che per lui era l'italiano praticamente, la sua lingua ufficiale, e ha avuto l'idea di fare questo pezzo, un pezzo meraviglioso, una ballata alla Stills. Benissimo. Trip has the same. sound of goodbye. Worthlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Worthlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Two alone, they are three together, they are four of each other. Stand by the stir where you see something such as to tell you, confessions as these cost. Love is as lying he lost in a lady who lingers, saying she's his lost, and choking on a love. They are one person, they are two who love more, they are three together, they are four. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Da qualche minuto abbiamo iniziato Rock Wave Live di questo mercoledì, questa sera con i Wooden Ships. Maurizio, tu sei partito in quarta come al solito, ma voglio, insomma... lo so, hai ragione. Impariamo un po' a conoscere il gruppo. Certo, certo, impariamo a conoscere il gruppo. Lo so, perché sono stato trasportato, assolutamente sì, va bene adesso così. Sono stato trasportato dall'atmosfera. Adesso lentamente conosciamo uno per uno i componenti della band. Di Giorgio e di Tiziano abbiamo già parlato. Parliamo del bassista di Max, qui vicino. Vai Max, presentati un momentino. Ciao a tutti, io sono Max Durante e ho l'onore di... È l'uomo che viene da più lontano. Sì, l'uomo che viene da più lontano, qui di fronte. Deve attraversare la strada. E... Facevo parte del gruppo di Tiziano, quando siamo stati chiamati da Giorgio per questo nuovo progetto che, devo dire, mi sta entusiasmando. E... Che dire, io sono sempre stato un amante dei Beatles, sopra ogni cosa, però anche Crosby, Stills & Nash era un gruppo che ascoltavo molto volentieri e per me è stata una scoperta affrontarlo in questo modo. Benissimo, benissimo. Adesso parliamo un momento col chitarrista. Vieni, vieni, vieni davanti al microfono, presentati un secondo. Prima abbiamo presentato velocemente. Ciao a tutti, io sono Stefano. Sono, diciamo, il solista del gruppo, sono la chitarra elettrica all'interno della band. Stasera sei con l'acustica? Ovviamente, per motivi di spazio, chiaramente. Esattamente. E hai partecipato anche ad altre formazioni, ad altre band, oppure no? Sì, assolutamente. Io suono in realtà con altri due gruppi. Sì, dimmi, dimmi. Partendo dall'inizio, come diceva Tiziano, parlando di Big Beat, attualmente sto suonando io con... i Big Beat. Ho capito, benissimo. Fai parte del Big Beat. Rock, parla anche dei Roccaforte. Parliamo anche di Roccaforte, una band. Sì, dimmi, dimmi. Faccio parte da circa 20 anni. Ok, ok. Il nostro repertorio si estende dai Rolling Stone a... Noi facciamo qualcosina di Neil Young comunque. Cose di Neil Young. Per non smentire Tiziano. Brani appunto anche dall'album Harvest come Alabama. Quindi abbastanza countryggianti per te. Esattamente. Abbastanza folk, possiamo dire, sì, questo. Sì, sì. Poi abbiamo Ines, che dà un tocco molto importante. Parlavo prima con Giorgio prima di iniziare il programma. Un tocco femminile. Non c'è Joni Mitchell stasera, chiaramente, però lei potrebbe essere la nostra Joni Mitchell, musicalmente parlando. C'è un che di Joni Mitchell. è una bella, la voce femminile ha un certo fascino, un certo colore rispetto a, alle voci maschili, al trio mirabile, magico, finché vogliamo, ma sempre maschile Ines. Quindi è una bella cosa una voce femminile in queste armonie fatate, possiamo dire così, musicalmente parlando. Beh, ti ringrazio, è un bel complimento, grande complimento. Per me cantare con questo gruppo è una bella sfida. Mossa veramente da sana passione. Perfetto. E quando ho iniziato con loro, veramente, ecco, mi sono cimentata in realtà nella parte di un uomo. Esatto, e ho provato esatto. a interpretarla però a modo mio, cercando di dare di mio, ecco. Beh, e devo dire che mi ha sempre più preso e continua a appassionarmi molto e a divertirmi. Certamente. Perché... Sì, infatti l'abbiamo soprannominata Ines. Ah, Ines. Ines. Abbiamo il nostro... Adesso abbiamo il nostro chitarrista, oh, vieni qua. Questo è un grande chitarrista. È una bella voce, sì, esatto. Bellissima, eccomi qua. Sei molto radiofonico. Sì. Sono nato per la radio. Dimmi. Allora, come sono entrato in questo gruppo? Esatto. Sono entrato all'inizio appunto con Ines e Giorgio perché facevamo il famoso progetto Bob Dylan. Ah, benissimo. Quindi suonavamo lì, diciamo. E poi appunto come si sono uniti i due gruppi, ho continuato con i Colby Stindash, che sono stati sempre... i miei idoli, diciamo. Perfetto, esattamente. Musicale, benissimo. E quindi e poi e coronare un sogno. Stasera abbiamo coronato un sogno mio musicalmente, perché io amo particolarmente questo genere musicale, questo alone magico. E anche ringraziamo Alberto Pisco, che è qui davanti, qui in regia, che ha favorito notevolmente la vostra chiamata stasera, e siamo molto onorati di questo. Bene, ringraziamo. Grazie. Tiziano, abbiamo già parlato con te, ti sei già presentato. Ho già detto anche te. Hai già detto troppo. Ok. Fai quell'accordo, sì che era bello. Fai. Questo è l'accordo che introduce un pezzo da Déjà Vu. Se non vado errato, Déjà Vu. E si intitola Marrakesh Express. È un grande pezzo Marrakesh Express. Adesso lo volete eseguire, chiaramente, siete pronti? Ok, possiamo partire. Thank you. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, ci siamo, Marrakesh Express. Questo Tiziano è un pezzo scritto da Nash del 1960, prima del 69, perché lo eseguiva ancora con gli Hollies. 69-70. No, in caso lo eseguiva. Déjà vu? Sì. Sì, lo era, no, non era l'album Déjà vu, è dall'album Clubs T&H. È il primo album. È il primo album del, 60, del 69. Scusate. È praticamente un pezzo scritto da Graham Nash, che lui lo eseguiva anche con gli Hollies precedentemente. No, questo non mi risulta, a dir la verità. Marrakesh Express, che le biografie dicono questo, e dopo dicono anche che chiaramente. Io sono molto appassionato degli Hollies, perché praticamente ti piacciono gli Hollies? Sì, tantissimo, anche perché io avrei una matrice molto blues. Cosa dico? Beat. Gli Hollies, blues. Assolutamente beat. Ho detto blues. La sto curando blues, perché cantare per esempio le canzoni di Crosby devi avere un po' di anima blues, specialmente adesso che stiamo preparando un pezzo che questi disgraziati vogliono far cantare a me. Io con l'inglese ci litigo un po', no? E cos'è successo? Ho detto: dai, devi cantare sta canzone per forza. Devi cantare sta canzone per forza. E la canzone, nella fattispecie, è Almost Cut My Hair. Ah, ok. Io con l'inglese non è che ci litigo, diciamo, no? Però ho dato un'occhiata al testo e Almost Cut My Hair vuol dire quasi quasi mi taglio i capelli. Sì, esattamente. Adesso ho capito perché vogliono farmi cantare questa canzone. Ah, ok. Ma ritornando a Marrakesh Express, è un pezzo che lui si è ispirato al Marocco, assolutamente al Marocco. Sì, Marrakesh Express, sì. Esattamente, quindi un pezzo scritto da Graham Nash, che poi ha riportato nella band a tre praticamente, però c'è questa derivazione, non dico beat, però è molto ondulato, molto mosso, molto accattivante, possiamo dire, molto africano, possiamo dire questo. Le sonorità leggermente, sì, ci possono essere utilizzate dei bong, onomatopeico, ci possono essere utilizzate delle percussioni, dei movimenti percussivi, cioè un bel pezzo, un pezzo trainante, possiamo dire questo. 1969, cioè gli albori della formazione, proprio all'inizio del viaggio tra Cobb, Steele e Nash. Io direi che sì, dimmi. Una cosa volevo chiedervi: come mai avete, cioè, amate i pezzi, soprattutto i pezzi di Graham Nash? Voglio sapere il perché, al di là del tuo amore per il beat inglese, sì, o per Nash, il pop, tra virgolette. Io Nash lo trovo molto attuale ancora. Come... Diciamo che è stato lui a portare proprio l'idea del trio. Le canzoni che ha scritto lui, per esempio Marrakesh Express, se fosse uscita anche ieri, sì, una canzone sarebbe ancora valida. Valida, esattamente. O quei pezzi che ha scritto Nash, per esempio Cathedral, che è un altro capolavoro, che noi tra l'altro facciamo e anche dal vivo ci riesce particolarmente bene, ecco. E poi ce ne sono tantissime altre che adesso non ricordo, perché sa, l'emozione, dovrei guardare qui. Ne ha fatte tante, però. Sì, ne ha fatte tantissime. No, ne fate tante anche voi della band. Ah, sì, questo, certo. Voglio dire. Sì, lui ne ha scritte tantissime, sì. Chi più buono e chi meno buono, a seconda. Carry the Way anche. Anche Carry the Way, sì, un capolavoro che questa sera Chicago. Dimmi Max. Sì, anche Chicago. Vabbè, Chicago è un capolavoro assoluto. La proponiamo. La proponete Chicago. Just a Song Before I Go e Teach Your Children, cioè Nash, secondo me, forse sai cosa aveva Nash? Era il lago della bilancia, nel senso, esatto, positivo. Cioè, d'accordo. Quando c'erano gli attriti tra Crosby e Nash, tra Crosby, Steele e Nash, tra Crosby, Steele e Young, arriva Nash che metteva a posto un po' di tutto. Era quello. Da buon inglese. Da buon inglese, esattamente. Poi, buon inglese, perché è andato, poi ha trovato Johnny Mitchell, ha trovato qualcuno, l'ha indirizzato, e Johnny Mitchell l'ha portato direttamente dall'Inghilterra a Los Angeles, è rimasto in California proprio. Lui è effettivamente un inglese che vive in America da sempre, è un americano a tutti gli effetti. Adesso, visto che siamo ben caldi, che cosa eseguiamo adesso, Tiziano? Allora, sempre Tiziano qua. Beh, Tiziano qua. Vabbè, dimmi. No, volentieri, lo dico volentieri. Allora, io devo ammettere l'ignoranza. Io canto i pezzi, faccio i pezzi, ma non ho nessun riferimento come Tiziano o come te, per esempio. Dei periodi, a me piace un pezzo. Beh, questo è del 69, quindi qui abbiamo appena eseguito. Allora, You Don't Have to Cry, sì, esatto. Che è del... Siamo ancora nel 69, dal primo 69. Album. Eccolo qui, ecco la chitarra, benissimo. Think of me and how you left me crying. Are you thinking on telephones? and managers and where we got to be unknown. You are living a reality. Hundred years ago, his quiet nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and hold before you time. And the difference between me and you, I want not to right or wrong, but I attempt to cry, my baby. You don't have to cry, and I say, cry, my baby. You don't have to cry, and I say, cry, my baby. You don't have to cry. In the morning, when you rise, do you think of me and how you left me crying? Are you thinking? Oh, telephones and managers and where we got to be unknown. You are living a reality. Hundred years ago, his quiet little legs killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and poor before you die. And the difference between me and you, I would not to right or wrong, but I attempt to cry, my baby. You don't have to cry, and I say, cry, my baby. You don't have to cry, and I say, cry, my baby. You don't have to cry. Rock Wave, l'onda del rock. Chi ama le canzoni di Crosby, Stills, Nash & Young deve stare incollato sulle frequenze di Blu Radio Veneto con i Wooden Chips questa sera sulle nostre frequenze, dentro al nostro piccolo studio insieme a te, Maurizio. Sì, hai perfettamente ragione, Sergio, proprio per entrare nel mondo di Crosby, Stills & Nash. Questo qua è un pezzo di Stephen Stills. È stato scritto perché lui doveva scrivere una lettera a chi? Potete immaginare a chi? A Joni Mitchell, la musa ispiratrice di tutto. L'idea è partita da quello, 1969, sempre il primo album del trio. È stata la prima canzone composta dal trio per il trio. Pezzo molto bello, eseguito benissimo da voi. Posso dire una cosa, Sergio? Non è semplice, non è facile eseguire i pezzi di Crosby, Stills & Nash, perché le armonie vocali di Crosby, Stills & Nash sono solo le armonie vocali di Crosby, Stills & Nash. Chiaramente grazie al loro timbro, è al loro timbro di voce particolarissimo, sì, sì, straordinario, sì, sì. Però sono stati bravissimi, veramente molto sì, bravi, sì, sì, sì. Indubbiamente. Ci fate piacere, enormemente piacere. Poi io che amo, fortissimamente amo, come Alberto, qui vicino, qui nascosto, e anche Sergio, queste atmosfere magiche, ci portate nella baia di Cisco, San Francisco, 1969, Figli dei Fiori, che bello, West Coast, vabbè, andiamo avanti, ok, questo avete eseguito, perché questo pezzo di Crosby, Stills & Nash, l'idea, Tiziano o Giorgio, perché l'idea di fare questo pezzo? Stiamo parlando di quello appena fatto? Sì, esattamente. Ma guarda, al di là della scaletta, perché avete indirizzato la scaletta su determinate caratteristiche del trio. Allora, io sono quello che propende sempre più per Stephen Stills, perché mi piace Stephen Stills. Sei rocchettaro te. E dovrei fare la voce di Stills. Mm. Che è dura la voce di Stills. Cioè, anche dura e tenera però in certi momenti. Decisamente. Però è un po' duro dal punto di vista anche caratteriale rispetto agli altri. Decisamente. Quello che vorrei far come si dice, capire a chi ci ascolta, no? Dimmi. Che maledetti loro, che sono eccezionali. Sempre benedetti loro. Sì, vabbè. Nel senso che purtroppo noi, logicamente, che non abbiamo la possibilità di studiarli più approfonditamente, no? Loro hanno un intreccio vocale che a volte c'è Stills che sale, sì, esatto. Crosby sì. Che scende. Esattamente. Non si sa mai chi poi prende, no, quella tonalità lì. Fatto sta che in qualche modo riusciamo a capire, ci siamo dati di noi tre voci, abbiamo detto Ines Fanesh, Tiziano fa David Crosby e io faccio Stephen Steele. Hai detto una cosa giusta, Ines van Nes, perché giustamente Nes ha una caratteristica vocale molto dolce, delicata. Sì. Assolutamente, lui ha sempre fatto le cose, anche se certi testi di Nes non sono così delicati, però ha sempre avuto la caratteristica di addolcire. Gli Hollies erano un gruppo che addolciva, hanno fatto un famoso disco doppio, gli Hollies, quando se n'è andato via Nes, tra presentisi, un tributo a Dylan che ha avuto un grande successo. Sì. Ma Nes era già andato perché erano troppo commerciali, troppo zuccherosi. Sono venuti al Festival di Sanremo gli Hollies, vi ricordate? Sì, perfettamente. Almeno per noi giovani sì. Per noi giovani, esattamente. Per noi giovani sì. Sergio no, che è molto più giovane di noi, non si ricorda che gli Oli sono venuti a Sanremo un po' di molti anni fa. Oh, quindi l'idea di fare i pezzi, di dividere le voci è stata questa. Insomma. Allora, per dirti... E l'entrata di Ines, voce femminile, in un consesso assolutamente maschile, non è stato semplice, è stato difficile. No, beh, noi avevamo già delle esperienze precedenti, appunto come per il progetto Dylan che ti dicevo. Sì, certo. Poi, io e Ines suoniamo da diversi anni assieme, abbiamo avuto diverse strade. E il fatto di scegliere lei è perché ormai avevamo un'amalgama io e lei per certo. altre situazioni, no? Ma poi più che altro perché avendo una voce più acuta della nostra, la vedevo molto bene fare Graham Nash. Certo, certo. Ecco. Tra l'altro Ines ha una timbrica molto molto particolare. E nel senso che è molto bella come timbrica, la potenza viene fuori quando noi siamo noi tre. Certo, capisci? Hai ragione. E questo crea l'amalgama. Certo, perfetto. Ecco, poi diciamo che come posso dire? Dimmi. La scelta dei pezzi è fatta proprio in funzione di cosa? Allora, io faccio un pezzo, proviamo il mio pezzo, poi diciamo facciamo un pezzo di David Crosby. Sì. Poi facciamo un pezzo di Nash, proprio per avere tutti e tre la possibilità di esprimerci su quello che ci piace, capito? Certo, certo, benissimo. Poi si va un po' a gusto personale, chiaramente. Uno propone, se gli altri sono d'accordo si fa. Ma quando vi trovate in studio e decidete, facciamo questo pezzo, e c'è una questione democratica, facciamo parlare anche con gli altri. Sì, no. Democraticamente... tutti siano d'accordo, poi c'è no, io vorrei lo vorrei in una certa dimensione, così lo vorrei. Dimmi, visto che tu sei il chitarrista principale. Vai. Se posso dire una cosa, comunque sono molto indisciplinati in sala prove. Sono molto indisciplinati. Comunque Tiziano diventa tutto rosso, è molto Tiziano difficile quello che andiamo rosso. A fare. Ma tale gruppo non lo è. dimmi. Ma allora noi in particolare perché siamo in otto, quindi al massimo. Ho capito, sono decisamente indisciplinati. Anche perché come vedi questa è la situazione acustica, no? Certo, certo. Mentre noi siamo in otto perché manca la tastiera, certo. E la batteria, capito? Sì, stasera siamo in acustica, il nostro bassista Max è qui di fronte a me. Max ha una notevole funzione in certe sonorità di Crosby, Stills, Nash. Adesso visto ti do il microfono, adesso mi rispondi un momentino. Qual era la domanda? La funzione del basso. La funzione del basso. In questa sonorità un po' particolari. Beh, stiamo parlando con uno dei migliori bassisti. Appunto per questo. Ma devo dire che il basso di Crosby, Stills & Nash non è particolarmente tecnico, ma è molto efficace nell'accompagnare. Sta un po' sotto, ma comunque si sente, si fa apprezzare. Ed è in ogni caso fondamentale per la riuscita del brano. Tutto ma qui insomma. Ma sempre il basso è fondamentale per l'uscita dei brani, secondo me, in ogni caso. Beh, più o meno, insomma, dipende. In questo caso non è fondamentale come in altri contesti, però bisogna dire che se non ci sono io, appunto, se non ci ci mettono a piangere. È così. Può darsi che sia così. Ok, adesso sono le 22.37, quasi 22.38, e già più di 30 minuti sono passati. Ma e suoniamo! Certo, suoniamo. Che cosa? Adesso questo è un pezzo molto importante. Lo facciamo presentare da Ines, sto pezzo, dai. Il titolo. Allora, il pezzo si chiama Sweet Judy Blue Eyes. Ah, è un classico, un assolutamente un classico. Una jam session continuata di qualche ora per fare questo pezzo, secondo me. Cosa dici? Decisamente. Okay. Infatti, mettetevi comodi per 8-9 minuti. È un pezzo perché... lungo. È un pezzo lungo e penso sia anche un pezzo molto complesso. Sì. Complesso. Decisamente complesso. Anche perché infatti è il nome che dice è una suite. Esattamente, esattamente. Per cui suite. A tre cambi. Fatto in tre tempi. Fatto in tre tempi. Esatto, è sempre lei, è sempre lei la musa di tutto, assolutamente la musa di tutto è sempre lei. Okay. Allora niente, se noi vogliamo partire. Ok, ci siamo? Siamo pronti? Sì, sì. Getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry aloud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. You make a call. Remember what we said. Hands down. And fell about each other. Oh, babe, I mercy. Don't let the past remind us of what we are right now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are. You make a call. There in yourself, away from me now, you are free. And I'm crying. They don't love me. I don't love you. I do. That's forever. Yes, I'm for always. I am yours. You are mine. You are what you are. You make a heart. Something inside. He's telling me that I've got your secret. Are you still leaving? Fear is the lock and louder the key to your heart. And I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make a heart, and you make a heart, and you make a heart, and you make a heart. You've got to lose. Tuesday morning, please be gone. I'm tired of you. What have you got to lose? Can I tell you, lucky? got to lose. You come see me Tuesday and a Saturday. Hey, hey, yeah, yeah. What have you got to lose? Voices on the angel ring around the moonlight, asking me, say, she's so free, how can you catch the sparrow? Nothing left in Larry, listen, love lamenting, change my life, make it right, be my lady. Rockwave Live. Caro Maurizio, ormai siamo nella piena atmosfera. Esattamente, Sergio, proprio questa è una suite, dura 7 minuti nella fase originale e ci manca tutto poco anche qua, siamo circa, cosa dici Tiziano? I 7 minuti canonici. Dobbiamo sottolineare la voce di Steels, di Giorgio. Abbiamo sentito Steels, è vero? Ringrazio, vorrei potermi perché dobbiamo dire che Steels in questo pezzo ha suonato tutto, tutti gli strumenti li ha suonato lui. Ha suonato anche le congas girando il retto della Martin, della chitarra praticamente. È una cosa meravigliosa. È un pezzo dedicato, una storia d'amore dedicato al rapporto amoroso con Johnny Mitchell. Quando la esegue dal vivo percuote moltissimo quella Difatti, la Martin. E poi c'era un grande batterista, era Dallas Taylor. Un grandissimo musicista. E poi questi suoni finali erano suoni spagnoli, cantava in spagnolo, dedicato a Cuba. Se ti ricordi, lui ha fatto anche un gruppo molto latino, i Manassas. Esatto, grande gruppo latino. Molto doppio, grande doppio album. Sì, decisamente. Ecco, loro erano veramente decisamente forti, nel senso che davano tutto questo sapore latino alle canzoni di Steels, perché poi alla base è tutta quanta musica sua. Eh sì, al 90%. Al 90%. E questo anche, se mi permetti, non dico al 90%, al 60%, comunque qualcosa di più degli altri, anche per i Crosby, Stills, Nash. Certo, sono d'accordo. Ricordiamo che questo è un pezzo del 1969, un pezzo molto bello che poi è stato ripreso in Four Way Street, ragazzi. Four Way Street è un classico dei classici, esattamente. Però originariamente è del 69 in Crosby, Stills & Nash. Cosa dici il nostro bassista? Qui il basso ci vuole, si sente, sì, si sente qua il basso. Sì, eh. Sì, questo è un pezzo in cui è, direi che è fondamentale. È decisamente fondamentale, è trainante. Alcuni brani di Crosby, Stills & Nash sono così perfetti vocalmente che basta una chitarra acustica per renderli a massimo. Però qualche brano effettivamente si completa nel basso. Io vorrei fare una cosa. A me è piaciuto moltissimo il duetto che hai fatto te e il nostro chitarrista. Hai fatto degli arpeggi meravigliosi. Adesso me li fai un secondo. Vai, vai. Adesso. In questo momento è solo un flash, dai, un flash. Sai che qui lo trovi in un momento. Sai che Rock Wave non ha confini e non ha scalette. Lui è un professionista. Si usava molto la cordatura aperta. Lo so, lui è un professionista, esattamente. Lo so. Ecco, adesso riprendiamo con la chitarra con le cordature aperte. Era meraviglioso quel gioco tra il basso e la chitarra acustica. Solo un inizio, solo un flash, dai. In quale punto? Proprio su, verso metà, dai. Ecco, proprio quello. Ok, vai. È che abbiamo un piccolo problema di audio. Adesso partiamo, vi preoccupate. Ci siamo? Sì. Ok. Vai. Ecco, ok. Perfetto. Ok. Vai. Ok, adesso partiamo. Vai Max. Piccolo problema tecnico. Adesso lo risolviamo. Sì. Ok. Al basso c'è. No. Faccio meno. Sì. Mistero. Non importa. Ce lo immaginiamo, ecco così. Ce lo immaginiamo. Questo duetto tra la chitarra acustica e il basso. Pezzo molto bello, un pezzo trascinante. Con Four Way Street lo hanno fatto dal vivo in una session lunghissima. Potevano andare fino a mezz'ora senza nessun problema. Sette minuti sì, di orologio, perché avevano deciso di 7 minuti. Però con Stills non ci sono i problemi di 7 minuti. Si poteva andare avanti benissimo. Grande pezzo, sempre tratto da Crosby, Stills & Nash, 1969, l'inizio del mito del trio praticamente. Andiamo avanti, adesso canti proprio te, Max. Che cosa canti? Teacher Children. Ah, un altro pezzo bellissimo di Nash, sempre un pezzo di Nash, stavolta lo canti te, sì. E non Ines, chiaramente. Chiaramente, sì. Adesso. In realtà lo canta anche lei, mi accompagna. Lo cantate insieme, benissimo. Sì. È un classico dei classici di Graham Nash, assolutamente. Sì, uno di quelli che va sempre nei bis. Va sempre nei bis, esatto, è vero. Poi trascina il pubblico, trascina la platea, così chiamata. Esatto. Just the Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Maurizio, è quasi volata la prima ora insieme ai Wooden Ships e a te. Parliamo di questa meraviglia. Ci sono due versioni. La prima versione è da Corbett, Steele & Nash. Non c'era Jerry Garcia, che è rientrato in Deja Vu. Ragazzi, al Playstation Guitar c'era Jerry Garcia. Chiaramente una cosa meravigliosa. E il ritornello, in questo pezzo meraviglioso, l'ha inventato Stills, perché nell'originale non c'era il ritornello e poi lui ha inserito in Deja Vu, una cosa splendida. Stasera non c'erano Crosby e Nash, ma c'era Max e Ines, ed è una cosa molto positiva lo stesso. L'atmosfera è rimasta immutata, la magia è sempre quella, come giustamente dicevamo prima, è il bis dei bis, questo caso. Si fa sentire sempre perché è un pezzo meraviglioso, un pezzo trascinante. Una ballata country, possiamo dire questo? Sì. Cosa dici, Giorgio? Sì, assolutamente country. È un pezzo country scritto da Nash, che non era propriamente un musicista country, però in questa dimensione è diventato un pezzo country famosissimo e amatissimo da tutti i fans del duo, del trio, del quartetto, possiamo dire. Non c'era Young, un giornalista ha scritto, non c'era Young neanche stavolta. E Young c'è, non c'è, se ne va spesso e volentieri. Fammi vedere, adesso facciamo una cosa che ho sentito prima in prova. Mi sono alzato in piedi, sono stato preso dalla magia di questo pezzo. Possiamo dire da dove proviene questo pezzo, dai, no. Tiziano? No, non io non, ma te lo dico io, Carry On, è Carry On, un pezzo meraviglioso. Non sono molto afferrato sulla... E dice Stills, l'ha scritto Stills, Carry On, caro Stills, fammi vedere, l'ha scritto lui, assolutamente lui. E lui ha detto, quando hanno presentato Deja Vu, ha detto questa frase mirabile: avevamo bisogno di un brano d'apertura. E che brano d'apertura, ragazzi, incredibile. Anche questa è una suite, secondo me. Poteva essere una suite. Potrebbe essere una Potrebbe suite anche essere. Questa. È meravigliosa l'impasto vocale, le voci che si alzano e si abbassano in modo splendido. Un pezzo incredibile. Ti dirò la difficoltà di tirare fuori. È molto difficile. Le tre linee melodiche è stato abbastanza... È un pezzo molto però, difficile. Però, sai cosa? Dà soddisfazione, indubbiamente dà molta soddisfazione. Sì, forse il pezzo che abbiamo speso più ore di prova, credo. Sì, dobbiamo... Sì. Decisamente sì. Credo di sì. Decisamente. Penso di sì. Dobbiamo ricordare, questo era un pezzo che Stills aveva scritto anche per i Buffalo Springfield. Sì, decisamente. Originariamente. Poi ha ripreso le cose migliori e le ha messe dentro, le ha rimodernate, le ha arrangiate per il quartetto stavolta. Esattamente. Siamo pronti per questa magia? Siamo pronti. Ines è pronta, l'ha detto. Okay. Woke up and I knew you were Rock Wave Live. È già finita, così presto è già finita. lo so, cose però belle durano purtroppo le cose belle, dobbiamo sottolineare, questo è un pezzo incredibile, è incredibile, le voci sono incredibili, gli accordi, siete stati bravissimi, è un pezzo difficilissimo. Poi c'è è il pezzo della filosofia, della pace, dell'amore, della filosofia californiana al 100%, vero Giorgio? Il pezzo di Steve Proger ci ha messo proprio la sua forza, la sua voglia di andare, di trovare, di creare. Reminiscenze dei figli dei fiori, no? È assolutamente reminiscenze dei figli dei fiori. Forza di cose. No, indubbiamente è una delle canzoni, ne ha fatte tantissime. Ma questa è una canzone simbolo. Esattamente. È una canzone simbolo. Come d'altra parte, una canzone simbolo è Teach Your Children, che abbiamo sentito prima. Esattamente. Di Graham Nash, no? Sì, meravigliosa. Io vorrei sottolineare una cosa, dobbiamo dirlo. L'impasto vocale che ha fatto Ines con te è stato splendido. Non siamo davanti a Crosby e Nash o Crosby, Stills, Nash. Siamo davanti a Giorgio e Ines, è una cosa diversa. La difficoltà di farlo con Tiziano assieme è difficilissimo. Questo è un pezzo difficilissimo, secondo me. Ti dico, abbiamo lavorato parecchio. È bello su questo pezzo. E lo so che più degli altri. Però dà soddisfazione, una volta fatto. E lo so che io sono. E poi prende, no? Prende. Siccome Paganini non ripete, ma adesso mi ripetete il ritornello, non c'è niente da fare. Lo so che vi mando così, però io sono più. È più forte di me. Il ritornello m'ha preso. Adesso Giorgio sistema la chitarra. Da che? Proprio da quello, sì, vai. Ok. Il ritornello è meraviglioso. Lui intendeva dire il ritornello. Il ritornello, quella voce che si alza e si abbassa. Proprio quello, proprio quello. Sì, è bellissimo, è una cosa meravigliosa. Scusate, ma. Love is coming to us all. bello. E poi c'è la saga, la continuazione psichedelia pura, poi alla fine con i bongos, con le percussioni. Pezzo incredibile. Ok, bene, io sono soddisfattissimo. Ci siamo proprio catapultati nella West Coast. Adesso sono le 11, adesso vi facciamo riposare qualche minuto. Per un discorso molto semplice, i famosi dischi da portare su un'isola deserta. Scegliete tre dischi a testa da portare su un'isola deserta. C'è una regola fondamentale del programma: non si può copiare. Tutto là. Ecco, facciamo il giro. Se vuoi, possiamo cominciare da Max, che è qui davanti a me, di fronte a me, e poi arriviamo solo fino tre? A. Solo tre, perché siamo in tanti. Facciamo quattro, dai. Però una roba veloce. Facciamo il giro fino a Tiziano. Vai, Max, tocca a te. Comincia da te. Come ho detto all'inizio, io mi dispiace se qualcuno se ne ha male, ma sono sempre stato un grande amante di Beatles, per cui nell'isola deserta mi porto sicuramente Sgt. Pepper's e poi direi Revolver e infine Abbey Road. Quindi Beatles al 100%, c'è poco da fare. Sgt. Pepper, Revolver e Abbey Road. Vai, tocca a te adesso. Beh, in quanto amante dei Rolling, potrei portare. Dimmi, so, 50 anni Lady di Rolling. Lady Bleed, per esempio. Lady Bleed. Un disco che mi piace moltissimo. Exile Main Street. Exile Main Street. Bene. Bel doppio album, qualcosina di Beatles sicuramente. Abbey Road, sono d'accordo assolutamente con Max. Non si può copiare. Non si può copiare. No, assolutamente no, è vietato dalla regola fondamentale di questo programma che mi abbiamo inventato io ed Alberto. Allora porto l'album bianco, scusa, non faccio torto a nessuno. No, va credo. Bene, l'album bianco può andare. Ok, ne hai scelti tre? No, mi manca ancora uno. Manca ancora uno. Mm. Beh, potrei portare ad esempio Harvest di Young. L'hai citato, hai fatto bene. Visto che Young l'abbiamo citato poco, perché volutamente è stato messo da una parte, volutamente dagli altri tre, perché il suo carattere è un po' di, anche se è un genio assoluto. Vabbè, Giorgio, tocca a te adesso. Ma guarda, come ti dicevo prima, io vado sui fondamentali. Dai, sui fondamentali. Dylan, Beatles. Scegli qualcosa di Dylan. Non ti dico no. No, in particolare no. Ecco, io prima di partire per l'isola deserta, mi metterei a risentire tutti i CD di Dylan e sceglierei quello che mi piace di più. Bene. Questo di Dylan. Magari me ne porterei anche due di Dylan. Bene, bene. Magari uno dei Beatles, senz'altro, sì, quello per chiaro. Forza di cose. E Crosby, Stills, Nash, logicamente. Logicamente, non poteva ecco, mancare. Ma comunque dovrei comunque risentirmi tutti e poi vedere quali portarmi tutti via. Tutti i suoi punti di riferimento sono questi. Esattamente. Assolutamente. Esatto. Tutto a te, Ines? Io ho tre cose diverse. Bene. Allora. Paolo Conte. Cosa di Paolo Conte? Un CD che si intitola proprio Paolo Conte del 74 o 75, perché ne ha fatti due, che per me è un mito. Bene. Poi Tapestry di Carole King. Ah, ecco, hai fatto bene a citare Tapestry. Carole King assieme a Joni Mitchell sono state quelle che hanno sdoganato la musica femminile. È vero. Tapestry ha fatto più di un milione di copie. Un grande disco. E poi perché l'adoro, Respect di Aretha Franklin. Ah, benissimo. Perché sicuramente è un disco che tiene compagnia e quindi ci sta. Certamente. Tocca a te adesso. Allora, beh, io sono l'eterno indeciso, per cui in questo momento, dimmi, se ci scegliere, penso. Allora, On the Beach di Neil Young. Bello, un bel album, interessante. Poi if I Could Only Remember Me. Qua il lume tutelare di tutta la California. Perché mi ispira, io che non sono l'imperatore di Edoardo Bennato. Ah, io non sono l'imperatore di Edoardo Bennato. Perfetto. È un ricordo d'infanzia. Ok, tocca a te, Tiziano. Io mi associo a Max, perché lui sa benissimo che io sono amante i gusti beatlesiani. Però so che se andassi in un'isola deserta, andrei in astinenza di Rickenbacker. Ah, per cui, dopo viene fuori per da cui Rickenbacker. Tra Revolver e Debbie Road, lascio fuori Sgt. Pepper, perché per me io preferisco Revolver. Mi porterei anche Mr. Tambourine Man dei Birds. Dei Birds, il primo album dei Birds, sì, esattamente. Perché andrei sicuro, le mie orecchie andrebbero. Perché Roger McGinn Doce. Girala per piacere, perché devi girarla, perché ecco, delicatamente. Eccola. È bellissima, è proprio la chitarra di Roger McGinn. Bellissima. Sì, fra poco faremo sentire anche il suono. Fra poco faremo sentire la chitarra di Roger McGinn suonata da Tiziano. Ok, sono le 23.09, abbiamo ancora quasi un'oretta per proseguire questa cavalcata. Abbiamo molti pezzi, eh? Ma siamo pronti a farvi... Che cosa adesso? Io direi un Lay Me Down. Il prossimo pezzo, quel pezzo che parlavamo prima. È un pezzo particolare, è il pezzo dei Crosby, Stills & Nash un po' più avanti, cioè gli anni 2000, 2002 mi pare. Sì. Come mai questo pezzo, questa ballata che un critico ha scritto, una ballata alla Traffic? Chi l'ha scelta? Questo bellissimo pezzo, che tra l'altro è stata scritta dal figlio di Crosby, Raymond. Esattamente. L'abbiamo scelta io e Giorgio, forse io per primo o Giorgio, adesso non ricordo. Io so solo che c'era Crosby e Nash che venivano a Trento, siamo andati a sentirlo e poco prima io ho acquistato il doppio album, Crosby e Nash, c'era il pezzo che apriva l'album, era stupendo. Era molto bello, sì. È arrivato il giorno che siamo riusciti a farlo, anche questo è un pezzo che è stato molto difficile da fare, dobbiamo sottolineare una cosa, è scritto dal figlio di Crosby e Crosby ha dato praticamente il beneplacito, si è fidato del figlio e ha scritto un pezzo meraviglioso. Molto bravo, molto bravo il figlio, sì. Decisamente. Adesso lo sentiamo. Io l'ho sentito prima mentre stavano provando, è una meraviglia anche questo. Okay. Ascoltate attentamente, cari ascoltatori, sono le 22:23:10, assolutamente tutto in diretta. Grazie Maurizio. Lay Me Down. Driving out through the windmills and some of them were still. Sometimes it's hard to catch the wind and bend into your will. Even though it's hard to know just how the story ends, the road is long and it'll take its time, on that you can depend. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I behold again one day. Lay me down, lay me down. Maybe I'll behold again. Lay me down, lay me down. Maybe I'll behold again. Somewhere between heaven and hell, a soul knows where it's been. I want to feel my spirit lift it up and catch my breath again. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I'll behold again one day. Lay me down, lay me down. Maybe I'll behold again. Lay me down, lay me down. Maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down. Maybe I'll be whole again one day. Blue Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Devo sottolineare una cosa: l'arpeggio che dava Andrea, la colorazione che dava Andrea era stupefacente. Era esattamente, lui colorava il pezzo e colorando il pezzo consentiva ad Ines, a Giorgio e a Tiziano di vocalmente di amalgamare le voci. È una cosa incredibile. Questo è un pezzo molto, molto bello, ma non conosciutissimo del duo, perché è la fase degli anni 2000. Non sono i grandi successi degli anni 60 o 70. È un bel pezzo, però un pezzo interessante. E bravo autore, il figlio di David Crosby. Bisogna poi sentire quello che ha fatto ulteriormente. Certo, certo, certo. Però lo conosciamo molto bene. Ha fatto tanti progetti. Sì. Ha fatto altri progetti, sì. Sì, esatto, proprio quelli. Ha fatto più di un disco, lui, Raymond. Bello, interessante. Sono veramente eccezionali. Sì, sono bravi. Qualche critico ha detto: sì, sono bravi perché hanno dietro un certo che si chiama David Crosby. Spesso e volentieri. Però il primo disco era molto interessante, gli altri un po' meno, secondo me. Vediamo alla scaletta. Adesso mi devo sollevare in piedi, assolutamente. Perché io l'ho visto dal vivo al concerto di Graham Nash e David Crosby, e c'era anche assieme ad Alberto, e ci siamo così, siamo rimasti quei tre minuti scarsi in magia totale. Blackbird, cosa vi dite, ci dice, cari ascoltatori, Blackbird? Una magia di Paul McCartney in acustica, ci dice quello? L'album bianco. E una magia anche di Crosby e Nash. Una perla rara, come diceva Bon Max. Cosa dici, Max, che sei proprio dentro ai Beatles come Tiziano? Ecco, qui si può vedere la connessione che ha coinvolto anche a me tra Beatles e Crosby e Nash. Perché è evidente da alcune interpretazioni che hanno eseguito, tipicamente proprio Blackbird, che loro stessi amano i Beatles moltissimo. E infatti è un omaggio verso i Beatles la riproposizione di Blackbird, e mi pare che abbiano ripreso anche altri pezzi. In My Life. Esatto. Sì. Sì, ma lì, armonizzandoli sempre naturalmente a modo loro, chiaramente, facendo un pezzo un po' diverso, un po' proprio. Sì, io ricordo quando l'hanno fatto al concerto dal vivo qui a Padova qualche mese fa, Crosby e Nash, quando appena all'inizio hanno attaccato, qualche secondo la gente ha cominciato ad evaporare, nel senso positivo del termine. Ha capito che era un pezzo incredibile, sublime. Adesso lo sentiamo in religioso silenzio. Blackbird. Blackbird singing dead of night. Take his broken wings and learn to fly. Your life, you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing dead of night, taking sunken eyes and learn to see. Oh, your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Hail to the light of a dark black life. You were were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. Cosa posso dire, Sergio? Una meraviglia delle meraviglie. Non eravamo presenti quando nel 68 Paul McCartney fece una serenata ai fan riuniti davanti a casa sua suonando un acustico Blackbird, non c'eravamo quel tempo. Però abbiamo avuto la fortuna di conoscerla. Esattamente, sempre dall'album bianco, un album bianco, ecco, qualcuno ha scritto, è meglio di Sgt. Pepper, perché nell'album bianco c'è di tutto, assolutamente di tutto, dal rock durissimo di John Lennon alle meraviglie di Blackbird. La versione è molto bella, molto interessante e si adatta decisamente alla voce di Graham Nash, alla voce di Crabby Crosby, alle armonie vocali assolutamente californiane. E per quello è Blackbird, perché per quello hanno scelto Blackbird. Al di là del discorso di Graham Nash, del pop inglese e degli Hollies, molto legati alle sonorità beat, alle sonorità inglesi. Benissimo, abbiamo fatto questa parentesi beatlesiana. Adesso riprendiamo il nostro percorso. Questa commissione, Sergio, Giorgio, tra Beatles e Crosby, Stills e Nash, le armonie dei Beatles, le armonie di Crosby, Stills e Nash. Ti dirò una cosa. Dimmi. Allora, io li trovo sotto un certo aspetto, li trovo abbastanza simili. Chiaramente i Beatles sono nati prima. Sì, i Beatles sono nati prima, logicamente. Anche se gli Hollies erano contemporanei. Sì, giustissimo. Però, ed incidevano anche nella stessa etichetta. E la EMI, esattamente. Perciò quello, si incrociavano sicuramente. Esattamente. Quello EMI. Che io mi sono permesso di con degli amici di abbinare, sì, Paul McCartney, che per me, forse per gli altri no, ma per me Paul McCartney è... non sei lennoniano te, allora. No, io sono proprio Paul McCartney. McCartiano sei. Esattamente. Per me. Per te. Chiaro che i gusti sono molti. Certo. Ad ognuno. Stil sicuramente lennoniano. Sì, ecco. Secondo me sì. Anche se per me, invece, io sono disaccordo con te. Per me Stills è molto più McCartiano. McCartiano. Forse arisoniano qualche volta Stills, qualcuno dice. Sì, sotto un certo aspetto. Un certo aspetto. Beh, non importa. Comunque, ecco, per me, vedi, i Beatles hanno come autore principale Paul McCartney. Sì. Non c'è niente da dire, per me. Per te. I Crosby, Stills, Nash, l'autore principale è Stephen Stills. Certo. Anche gli altri sono eccezionali, come gli altri Beatles. Certo. Però questi due, secondo me, sono i punti cardini, praticamente, per te. Quindi l'idea di fare questo tributo parte dal vostro amore per i Beatles. Ma anche per altre cose. Per Dylan, grande Dylan. Adesso viene fuori Dylan. Poi alla volta arriva Dylan. Cosa dici, Tiziano? Sei un po' perplesso? No, stavo ascoltando quello che diceva Giorgio. Dimmi io... Max ha detto una cosa molto interessante. È molto bello anche perché lui è lennoniano, lui. Lui è lennoniano, per quello. Come mai sei lennoniano te? No, perché io trovo Lennon più geniale dei Beatles, forse. Qualche critico cattivo, perché poi McCartney è sdolcinato in alcuni momenti. Ma non è vero, assolutamente no. È una grande buttata questa qua, assolutamente. Ma non è vero. Ho pensato così, che Lennon, la musica per lui era come una forma d'arte, sì, mentre per McCartney sembra più un lavoro, come, non so se voglio... Ho capito. Più un lavoro, mentre per Lennon aveva delle intuizioni folli che venivano però molto, come si può dire, levigate da McCartney. Sì, anche levigata da Yoko Ono in alcuni momenti, le sue intenzioni folli. Questo è successo. È successo. Quando Yoko Ono si sedeva sul pianoforte mentre Paul suonava un pezzo, non era molto, molto godibile da parte di Paul. Questo è storia, mica l'ho contata io. È storia vera e propria, e quello succedeva all'epoca. D'altra parte c'era l'altra moglie, c'era Linda Eastman, che anche quella non andava molto d'accordo. Ma al di là di questo, i Beatles si sono sciolti perché dovevano essere sciolti. Cioè, l'epopea era finita, secondo me. Per me no. Sì, per te no, secondo me sì. I Pooh in Italia suonano ancora. Ah sì, hai ragione. Ma non sono i Pooh, non sono i Beatles italiani, fortunatamente. No, magari diciamo hai ragione Sergio, bravo. Un altro po' d'anni, un 3-4 anni ancora. Io penso che avessero ancora molto da dire. Secondo me sì, E secondo me, io che, come ripeto, amo più McCartney di Lennon. Penso che nel tempo certi pezzi che ha fatto Lennon, sì, Paul McCartney, sì, con l'aiuto di Lennon sarebbero stati ancora più belli. Ma secondo me l'aiuto c'è sempre stato, e viceversa. C'è sempre stato. Cosa dici, Mac? L'aiuto c'è sempre. Quello che io volevo dire. L'aiuto c'è sempre stato. Cioè, se noi ascoltiamo per esempio un album solista di Leno, in questo caso prendiamo in considerazione il primo, che è grandissimo, che è grandissimo. Plastic Ono Band, che è grandissimo. Lui, secondo me, è un diamante, sì, allo stato grezzo. È grandissimo. Adesso proviamo ad immaginare, per esempio, Abbey Road, dove c'è Come Together. Sì. Andiamo a vedere proprio l'arrangiamento che ha fatto McCartney su questo pezzo, che è un pezzo straordinario. È un pezzo folle, è un pezzo geniale. Non ho parole per dire. Vabbè, andiamo a vedere il primo album. Invece è stato fatto con chitarra, basso, batteria e un pianoforte, forse. Sì, il primo album di Paul, dice. No, il primo album di Lennon. Ecco, non ci sono quegli arrangiamenti che gli avrebbe fatto Paul. I pezzi sono molto proprio grezzi, buttati ma là, volutamente, così volutamente. Volutamente. Ma è una cosa splendida, voglio dire. Ma il primo album, non voglio dire che ma il primo album a mio parere, il primo album di Leno è ben superiore al primo album di Paul McCartney da solista. Sì, a mio parere, non so se siete d'accordo. Prego, d'accordo. Il primo album di Leno è decisamente superiore. Il migliore album di tutti quanti i Beatles. Anche se andiamo a vedere gli album che ama. No. Adesso facciamo. Ecco, vedi, ci mostra l'originale di Crosby, Stills e Nash e Young. Ecco, déjà vu. Cioè, se andiamo a vedere McCartney, ecco, c'è un altro disco di tutti gli album che ha fatto, io ne salverei al massimo due. Ben on the Run e Flower in the Dirt. Il resto sono tutti album che potrebbero aver fatto chiunque. Benissimo. Tu non sei d'accordo? Qui possiamo anche litigare. No, ma io, guarda, sai cosa? Io penso che perché li abbino, come per David Crosby e il John Lennon, capito? Sono i due, come si dice, i due più onirici, sì, bravo. Più, capito? Sì, mentre, non avevano. Mentre sia Stephen Stills che Paul McCartney sono più terra a terra. Sì, questo ma sono d'accordo. Io, ragazzi, vi dico. Più terra a terra sono. No, beh, ragazzi, per modo di dire. Parliamo per modo di dire. Per modo di dire, sicuramente. Ma io, ci sono dei pezzi di Paul McCartney che con tutta l'oniricità di John Lennon non riuscirebbe mai a aver scritto. Ok, vediamo che scaletta. Io dimmi. Comunque parlavo del periodo post Beatles. Post Beatles, no, ti do perfettamente i Beatles. Post Beatles, cioè io ho detto che sì, ho capito. Ha fatto meglio John Lennon. Sì, in 5 anni, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con te al 100%. Sono d'accordo con te. Molti album di Paul McCartney potevano anche non scriverli. Non essere fatti. Non potevano anche non scriverli. Cosa c'è in scaletta adesso, Tiziano? Visto? Allora, andiamo nel 1977. Io forse non ero ancora nato. Quindi sono cose che dico sempre quando siamo dal vivo. Allora, questo è un bell'album, quello della barca. Sì. CSN si intitola. CSN. Sì. Non abbiamo quello in discoteca, ne abbiamo un altro, ma non è quello. E il pezzo è ancora un pezzo di Graham Nash, che canterà Inesh con il supporto benissimo. di Giorgio Tiziano. Il pezzo si intitola Carried Away. Perfetto. You came from out of the skies, your skin and your eyes, the colors of bronze, the moon in your hair, swinging in shore. Soon you'll be gone, sailing out on the blue, you hold man, you drifting along, leaving me here, sticking it through. Soon you'll be gone, moving to my changes as fast as I can, try and bring a balance to me and the man. Part of me screaming to say I wanna be carried away. Thank you. moving through my changes as fast as I can. Try and bring a balance to me and the man. Part of me is screaming to say, I wanna be carried away from a disguise, skin and your eyes, the colors of bronze, star in your ear, speaking in shown, so you'll be gone. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ultima mezz'ora, caro Maurizio, con i Wooden Ships. Ok, sì, l'ultima mezz'ora con i Wooden Ships. Peccato, è solo l'ultima mezz'ora, ragazzi. Peccato. Sono le 23:30, quindi abbiamo mezz'oretta. Citiamo un momento questo pezzo del 76, fatto da, ispirato a un caffè shop di Miami, in Florida, chiaramente del Nash. Nash stasera, e Giorgio suonava il piano e l'armonica, stasera Giorgio ha suonato l'armonica, ecco, e Ines ha cantato. Abbiamo trasportato appunto la base del pianoforte, che è la cosa più bella, se vuoi, di... Certo, del pezzo. E abbiamo dovuto farlo, appunto, essendo acustici, con Adriano. Esattamente, con Andrea. Andrea. Che ha fatto appunto la parte della chitarra. Sì, l'ha suonato come fosse un piano, praticamente. Logicamente, quando siamo dal vivo, che a proposito, non si può fare pubblicità. Come no? Avete qualche data da fare? Come no? Certo che si può fare. L'11 di gennaio. Non pubblicizziamo mica i prodotti. Giustamente, comunque l'11 di gennaio. Siamo eccola, è pronta. Dimmi. Siamo al Terminal. Conosci il Terminal? Sì, lo conosciamo, è un locale, ecco, di Padova. Molto molto giusto, molto, certo. Anche perché l'acustica è splendida. Certo. E abbiamo parecchie soddisfazioni di andare a suonare. Quindi l'11 gennaio siete là. L'11 gennaio, che è un venerdì, alle 21:30. Quindi una jam session fino a mezzanotte, praticamente. Eh beh, direi di sì. Di tutte le cose più belle che siamo in otto, per cui bellissimo. Tastiera, pianoforte, tastiera, basso. Sì, cogliamo l'occasione per salutare Beppe e Adriano. Sì, salutiamo Beppe e Adriano, che non sono presenti stasera, chiaramente. Però non sono presenti, ma ci stanno ascoltando sicuramente, spero almeno che sia così. Quindi abbiamo citato sì, abbiamo citato questo pezzo del 76 da Crosby. No, 77, scusami, da Crosby. Perché nel 77 sono successe molte cose. Per esempio, c'è il Talking Head del 77, un album importante. E anche c'è questo album. Non ha avuto tanto successo, però, francamente, Giorgio. È un po' in fase calante. Ci sono qualche pezzo molto belli, qualche altro pezzo un po' meno bello. D'altronde non è semplice, non è facile. L'armonia non è facile trovarla, nonostante l'età nel senso positivo del termine, la qualità dei personaggi, praticamente. Ok, sei pronto a fare non sei ancora pronto, no, allora. No, dimmi. Facciamo 4 più 20. Ma facciamo 4 più 20 allora adesso. No, volevo solo ricordare che... 4, il pezzo si intitola 4 and 20. Sì, esattamente, in gergo 4 più 20 praticamente. È dall'album... Déjà vu, esattamente, perché Alberto prima ci ha mostrato in vinile. E ragazzi, io sto vedendo la Rickenbacker, è quasi pronta, è quasi pronta la Rickenbacker, meravigliosa, come sempre. Ecco, volevo dire una cosa. Dimmi. Scusami, anche questo pezzo qui, Stephen Stills lo canta da solo. Noi l'abbiamo armonizzato. È una canzone biografica, autobiografica di Stephen Stills. E lo canta da solo, esattamente. E non c'è mai Young, vedi caso. Esattamente. Esattamente. No, volevo dire che in questo caso, noi abbiamo armonizzato questo pezzo a tre voci. Sì. Benissimo. Ottimo. Siamo pronti allora? Sì, siamo pronti. Four and 20 years ago, I come into this life. The son of a woman and a man was living in strife. He was tired of being poor. And he was into the cellar door to door. And he walked like a devil to be more. a different kind of poverty now upset me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why I am so long. Where is my woman? Can I bring her home? Have I treated the way did she go? Morning come the sunrise, am I driven to my bed? I see this is empty and there's devils in my head. I embrace the many color beast. Grove is of a torment, can there be no peace? I myself not just wishing that my life was in disease. Delle tre voci, esatto. Ma anticamente, cioè anticamente era tentato di fare un discorso a tre voci, poi non è andato a buon fine, vedi? C'è poco da fare. Ci avete pensato voi, però anche lui ci aveva pensato all'epoca. Si parla del 69, quindi è un pezzo autobiografico, una canzone assolutamente di Stills. Si sente una canzone di Stills, c'è poco da fare. L'atmosfera è quella, e poi la versione. Quella voce di Ines che dà una certa colorazione. Ed è in particolare interessante perché, ripeto, non è perché Ines qua davanti, però è interessante inserire una voce femminile in un contesto assolutamente maschile. E non è semplice, è stato un po' difficile anche per te, Ines, secondo me, entrare nell'insieme, nel progetto. Anche se suonavi con Giorgio. Ma forse difficile. A livello che sono magari tutti uomini, no? Perché no, parlo delle voci. Vocalmente, certamente, perché appunto, essendo tutte voci maschili, ho dovuto un po' provare a interpretare a mio modo. Però devo dire che ho avuto anche la possibilità di sbizzarrirmi anche un po', perché sì, noi facciamo cover, cerchiamo di organizzare come loro, però non in tutti i pezzi facciamo una cosa pedissequa, uguale, identica. Ci mettiamo anche un po' del nostro. E io in alcuni pezzi ho potuto anche mettere qualcosa di mio, che è stato anche accettato. Certo. Quindi... Tu hai detto facciamo cover, ma le fate in modo diverso. Non le fate le cover tali. No, e tribute per modo di dire, cioè tribute sì, chiaramente sì, citate i mostri senso, sacri, certo. Però le rivoluzionate, le ampliate, le minuzzate, le adattate alle vostre esigenze vocali. E questo che è importante, secondo me, fare cover in questo senso. Sei d'accordo, sì, Andrea, su questo? Il bello. Sei d'accordo? A volte ci scambiamo i ruoli, cioè, esattamente. Non è che lui fa sempre la voce di Stills, lui di me. Anche se lui ama molto fare la voce di Stills, assolutamente. Tenti. Però cioè, adesso Ines fa la voce di Nash e come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, la voce di Nash si avvicina, certe vocalizzi, può avvicinarsi a una voce femminile. Indubbiamente. Adesso Tiziano mi ha mostrato un pezzo molto importante, molto politico, Chimes of Freedom. Pezzo importantissimo Dylan. Scritto di Dylan, da Another Side of Bob Dylan, del 1964. Perché citiamo questo pezzo? Perché dobbiamo alzarci in piedi noi berziani da sempre. Perché i Berz hanno ripreso tre pezzi di Dylan e soprattutto quello che poi faremo sentire più tardi, ma hanno ripreso questo pezzo che è ripreso anche tempo dopo da un certo signore che si chiamava il Boss, Bruce Springsteen, un famoso concerto live, pezzo incredibile fatto dal Boss. Adesso lo sentiamo, Chimes of Freedom, da tanti anni non lo sento più, adesso lo sentiamo, lo sento ben volentieri, io, Alberto e Sergio qui presenti. Chimes of Freedom. Far between sundown. We're dark inside the door, red thunder crashing. As majestic bells of bold, struck shadows seem to sound, seeming to be the chance of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on his warm world of flight. And for each and every underdog, soldiers in the night. And we gaze upon the chimes of freedom flashing. And the city men of our names explaining with the words we face it, lady. Echoes of the wedding bell before the blower rain into the silver weather of the lightning. Jolly for the rebel, jolly for the rain, jolly for the lightless, the abandoned forsake. Tolling for the outcast, burning Constantine's shame. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. White curtain and a fire of color flash. Had the night explode, we miss, we're slowly lifting. Electric lights still struck like Carol. Fire past the one, condemned to drift for us, but kept from drifting. Stalling for the searchers once. On the spacious city stream, from the love song of us lovers with a personal tale. And for each of our most gentle soul is placed inside our jail. And we gaze upon the chimes of freedom flashing. I Wooden Ships qui a Blu Radio Veneto, l'ultima ventina di minuti, caro Maurizio, e poi sarà il momento di chiudere. Eh sì, purtroppo. Le campagne della libertà, la campagna del movimento, anche se propriamente non si parlava tutto di libertà nel testo di Dylan, ma è un pezzo meraviglioso, un pezzo che la passionaria della musica folk, John Baez, fece suo con un mitico concerto live di alcuni anni fa. Chimes of Freedom, questo è il primo omaggio al grande Mr. Zimmerman, vero Tiziano? È vero Giorgio? Tu che hai, no, io lo vivo, guarda, credimi che ogni volta che lo canto mi dà delle sensazioni incredibili. E questo è da Another Side of Dylan, l'album del 1964, che segnava un passaggio dalla musica folk alla musica un po' più diversa dal folk, si era un po' allontanato dalla musica folk. E anche se questo pezzo non è stato lanciato da Dylan, è stato lanciato da Roger McGuinn e soci. Anche un altro, Roger McGuinn e soci, il dualismo tra Roger McGuinn, adesso visto che è la chitarra di Roger McGuinn, la Rickenbacker meravigliosa, il dualismo tra Roger McGuinn e David Crosby. Difatti è stato buttato fuori dalla band perché la band cercava, dopo il quarto disco, perché la band cercava altre strade un po' troppo musicali, un po' troppo pop secondo David Crosby, e Triad, che doveva inciderlo, non l'hanno accettato, gli altri della band l'hanno buttato fuori. Era poi esatto. L'ha riproposto con i Crosby, Stills, Nash. Lo so, l'ha riproposto con i Crosby. Anche aveva sfondi sessuali. Sì, è un po' particolare Triad. sì, beh, un po' particolare, un po'. Si parlava della Comune San Francisco, tante cose. Beh, Crosby era un po' strano, ma musicalmente era molto valido. Quindi stiamo arrivando ai Byrds, un gruppo straordinario. I Byrds, il folk rock è nato con loro, c'è poco da fare. Perché ami spassionatamente Roger McGuinn, visto che hai la sua chitarra stasera? È un po' difficile da spiegare, vero? Tu sai tutto di Roger McGuinn, hai studiato, mi sono appassionato alle sue cordature, al suo modo di suonare, di interpretare i pezzi, sì, di arrangiare i pezzi, di scrivere i pezzi. Sì, io quando ho sentito Mr. Tambourine Man sono rimasto folgorato da questo sound. Anch'io, molti anni fa. Anche Max, tutti quanti siamo folgorati. Io sono dal riff. Un po' più giovane di voi, perciò l'ho sentito a posteriori, diciamo. Sì, no? Dal riff, sì. E sono rimasto folgorato da questo suono che è della Rickenbacker 12 corde, che avevo già sentito coi Beatles, perché sì, adesso il discorso dei Beatles è nata con i Beatles, sono d'accordo, però il discorso dei Beatles, Tiziano ha fatto una sua idea del, sì, discorso della come mai Roger McGuinn, che era molto amante di John Lennon, erano tutti e tre, sia Gene Clark, sì, David Crosby e Roger McGuinn, erano lennoniani, suonavano come trio, se ti, sì, ricordi, sì, erano molto appassionati dei Beatles, erano lennoniani, però non, sì, McCartiani, assolutamente lennoniani, esatto, certamente. Però alcuni critici hanno scritto che Mr. Tambourine Man, che fra poco sentiremo, è stata influenzata da Roger McGuinn, da un pezzo di George Harrison. Tu dici di no, secondo me no, hai detto. Cioè, quale dici? Adesso ti dico qual è il pezzo di George Harrison. Adesso ci abbiamo tutto. Allora, il pezzo di George Harrison si chiama... no, non è il pezzo di George Harrison, suonata da George Harrison, e Hard Day's Night. Sì, suonata da George Harrison in quella maniera là, influenzata dal modo di suonare. Lui ha sentito il sound di Hard Day's, sì, Night, il sound di Hard Day's Night, e si è subito interessato che tipo di chitarra potesse usare George Harrison su quell'album, ed ha scoperto che era una Rickenbacker 12 corde, non proprio uguale a questa, ma quasi. No, proprio diversa. Eccola qua. Che George Harrison sapeva suonare molto bene, nonostante, sì, che Harrison la suonava più come una 6 corde, mentre Roger McGuinn lui suonava era la 12 corde. Suonava il banjo lui, sì, all'inizio. E poi si è messo a suonare la chitarra acustica a 12 corde, 12 finché corde. Ha trovato la chitarra, la Rickenbacker. Sì, ma tu hai detto che il riff di Mr. Tambourine Man, sì, secondo te si ispirava... No, non si è ispirato dall'album prettamente di Hard Day's Night. No, Beautiful Sail. E qui andiamo, ecco. Secondo me, almeno io, studiando tutte queste canzoni, sia dei Beatles e sia dei Byrds, sì, ho scoperto che l'impostazione della canzone che c'è sull'album Beatles For Sale, che adesso la sentiamo, anzi se vuoi la faccio sentire anch'io, che è la canzone che si intitola, sì, tredicesimo, What You Doing, sì, esattamente, che è penultima traccia, sì, l'andiamo a sentire? Sì, andiamo, sì, a sentire un secondo. Metti, Sergio, il brano quando comincia la chitarra a 12 corde, l'impostazione è identica a Mr. Tambourine Man. Adesso andiamo anche a la sentiamo tutta, tanto sì, sentiamo è brevissima. C'è un pezzo di batteria iniziale, buon Ringo. Eccola qua. Questa è la 12 corde di Harrison che suona questo riff, che a mio avviso è la stessa impostazione di Mr. Tambourine Man. Cioè, io quando ho fatto Mr. Tambourine Man e io sapevo già fare What You Do, ho detto ma è la stessa cosa, perché... è identica praticamente l'impostazione. E c'è, sì. Max, cioè le note sono le stesse, l'impostazione, lui usa queste quattro note. Max non è d'accordo, adesso sentiamo perché Max non è d'accordo. La somiglianza c'è, ma è molto leggera, la sequenza delle note, le note possono essere le stesse ma sono sequenziate in modo diverso. Esatto. Abbiamo sollevato un caso. Che io intendevo dire che l'impostazione, perché, che, sì, ha dato McGuinn sulla 12 corde è proprio tutta quanta qui sul re. Sì, perché, sì, lui usava, sì, applicato la tecnica del banjo con le unghiette, che io adesso vedi come sta. È vero, è vero. Sulla chitarra, cioè, mentre dicevo prima, Harrison la suonava come proprio una 6 corde. Mentre McGuinn faceva scantinare anche le altre corde, come si fa col banjo, come fa. e questo riff rimarrà secondo immortale. E questo what you doing? Questo no. Chiave secondo me è What You Doing che ha influenzato il riff di Mr. Tambourine Man, che è stata scritta circa un 6-7 mesi prima che uscisse Mr. Tambourine Adesso Man. La possiamo, ecco, questo è una mia teoria, non è che dopo ognuno può dire qualsiasi. La possiamo sentire, siete pronti? Mr. Tambourine Man. Certamente. Ma io avevo preparato. No, visto che abbiamo parlato di Mr. Tambourine, facciamo prima Mr. Tambourine. Adesso. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping here, there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, song for me. In the jingle jangle morning I can follow you. I know the evening's empire has returned into sand. Oh, vanish from my hand. Let me brand here to stay, the steeds no sleeping. Amazes me, I'm branding on my feet. I have no one to meet, and the empty street today for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping here, there is no place I'm going to. You're making me feel in sheep. My senses are being stripped. My head can't fit his weight. My toes too now to step. Waiting only for my boot shoes to be wandering. And I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Guess your dance is been my way. I promise to go on the rain. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping here, there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I can follow with you. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Cari signori, qui è nato il folk rock, c'è poco da fare. Questo è il pezzo che ha sdoganato Eagles e tutti gli altri vicini a queste sonorità. Sono stati loro i primi. Dobbiamo sottolineare che questo pezzo l'aveva suonato solo Roger McGinn, che per motivi economici non avevano i soldi per gli altri, praticamente c'erano dei sessi, mentre qui Leon Russell che ha dato una mano alla versione originale del pezzo. Pezzo incredibile che rimarrà sempre un pezzo incredibile nella storia della musica. Il folk rock è nato, ripeto, con questo pezzo. È il primo singolo di Bob Dylan che è andato al primo posto. Esatto, grazie ai Birds Dylan è diventato anche lui, cioè ha avuto un tocco di celebrità non da poco, esattamente. Da autore è diventato poi non soltanto autore, però Mr. Tambourine Man rimarrà sempre e rimarrà tale come sempre. Allora vediamo, c'è un'altra cosa adesso. Ha 92 anni ma è vivo e vegeto, è bravissimo, si chiama Pete Seeger. Questo è un pezzo biblico, possiamo dire, assolutamente biblico. È un'altra ballata, è un altro hit single dei Byrds, una versione molto molto bella nell'album dei Byrds, si chiama Turn Turn Turn. La versione che fate voi sarà sempre assolutamente molto molto bella. I Byrds, rivestuti e corretti dai Wooden Sheep. Vai. Mancano pochi istanti alla mezzanotte, Maurizio. Abbiamo quasi finito. Purtroppo abbiamo finito con un pezzo incredibilmente bello, meraviglioso. Beh, chiediamo anche ai nostri ospiti dove possiamo andarli a sentire. Sì, se esattamente. Oltre a qualche altro data, Giorgio, oltre a quella del terminal. Ti ricordi? Guarda, qualche altro? Ci stiamo muovendo, noi non ci muoviamo molto perché non vogliamo inflazionare il mercato. No, le nostre performance, capito? Esatto. Cerchiamo di fare una volta ogni due mesi, in modo che il locale dove poi si va si riempia di amici. Certo. Se invece noi siamo fuori tutte mandiamo in crisi d'astinenza gli amici, così poi. Capito? E poi hanno bisogno di venirci a sentire. Certo. Ecco, questo è. Diciamo che non cerchiamo più di tanto, Maurizio, nel senso che. Va bene così, va bene farci vedere poco e magari essere apprezzati per quella serata. Certo, e posso dire che Turn ha avuto una specie di emozione fra di voi, proprio un'unione totale. Questo è un pezzo di un certo fascino, di un certo peso, pezzo biblico che per sigle riprese, incise nel 62, che i Byrds portarono al numero uno in classifica nel 65. con la chitarra magica, la Rickenbacker di Roger McGinn, alias proprio la tecnica nell'assolo, proprio alias Tiziano stasera. Banjo, sì. La tecnica proprio del banjo del applicato banjo. Alla chitarra. Sì, sì, giustamente. Abbiamo finito purtroppo, sono passate 2 ore di musica per me bellissima, fa parte della mia generazione, io avevo una certa età, Alberto è molto più giovane di me, io avevo una certa età, sono più quasi, sono, però questa è una musica immortale, non morirà mai assolutamente. Sergio, cosa dici? Dobbiamo concludere. Dobbiamo concludere, sì, sì, sì. Mezzanotte ormai. Concludiamo però suonando dal vivo, chiaramente. Grazie a Tiziano. Domani chi c'è? Domani c'è Agostino col si parla dei Summertime. Ah sì, sì, è vero, è vero. Siamo prossimi ormai al musical, concerto. Mi pare. No, sì, no, sì. È un concerto che faranno l'8 dicembre. Ok. Di cui saremo, anche noi parteciperemo perché trasmetteremo in diretta il concerto. Sì, sì, è vero. Ringraziamo Tiziano, Andrea, Ines, Giorgio, Stefano, Max e i Button Ship per questa meraviglia, di due ore meravigliose della West Coast. Eh sì, teniamo con quella, sì. Un pezzo. Purtroppo io e Alberto avevamo chiesto un altro pezzo di Buffalo Springfield, ma non lo fate stasera. No, una prossima volta. Lo facciamo molto in chiave elettrica. La prova la prossima volta. Tiziano, con cosa concludiamo? Un altro grande pezzo di Steve. Find the cost of freedom. Ah, bellissimo, una cosa meravigliosa. Grazie della collaborazione musicale che ci avete dato, delle sensazioni che ci avete dato. Domani sera, ore 21, con Agostino e i Summertime. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi. Mother hurt with fire.